Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione. Questo è un giorno di partenze, cioè quella del Giro d'Italia. A proposito, avete sentito Piero Augusto Stagi nel giornale radio, sarà la nostra voce nel corso di questo Giro d'Italia con tutti gli speciali che facciamo e che faremo fino alla fine. Tra poco lo risentiamo, al momento maglia rosa virtuale, sarebbe un grande ascoltatore, un grande amico di Radio 24, cioè l'ingegner Marco Pinotti. Facciamo il tifo per lui naturalmente in questa cronosquadra che apre il giro. Giorno di partenze, quella del Giro d'Italia, ma anche giorno di partenze o quasi per Andrea Zorzi, un altro Giro d'Italia, quello che si appresta a fare e che ci racconterà pure. Parallelo, non so se si incroceranno perché ho perso il filo. Ma seguiremo entrambi. Sì, noi iniziamo dalla Sardegna e facciamo un'operazione geografica, restiamo nel sud Italia. Ma incroci il Giro d'Italia? Con il tuo alla ricerca delle tracce di sport? No, perché mi sono tenuto i luoghi dello sport Giro d'Italia nel nord Italia, nella convinzione, confermata anche da te, che le montagne siano alla fine ciò che meglio rappresentano la leggenda del Giro d'Italia. Ci sono alcune situazioni, mi parlavano della Calabria, di alcune bellissime tappe disputate dal Giro d'Italia in quelle zone, però dovendo scegliere mi sembrava che il ciclismo facesse rima con montagne, con Alpi, e quindi andremo a vedere questi luoghi. Comunque, parti lunedì, ovviamente ci terrai aggiornati a questi microfoni, ma non ti fai vedere per 3 settimane, mi molli qui da solo per 3 settimane, grazie. Guarda che per la prima volta in vita mia, grazie a te, sono rimasto a Milano per tutto l'inverno, cosa che non ho mai fatto nella mia vita, e l'ho fatto... Vedi, a seguire cattive compagnie, eh. 800 24 00 24 è il numero verde per parlare con me, ma soprattutto con Andrea Zorzi, con un sacco di temi di questo pomeriggio, di questa ora che sarà come al solito rapidissima e trascorreremo insieme. Più tardi andiamo al giro, subito dopo il traffico da Piero Augusto Stagi per la cronaca. Abbiamo anche, già ve l'annuncio, un'intervista a uno dei signori del ciclismo, cioè Giorgio Squinzi, il signor Mappei, che ha aperto nuove frontiere per il ciclismo e che ancora, nonostante le delusioni subite che ben conoscete, non riesce a perdere il vizio di un grande intenditore appassionato di ciclismo, e poi lo ascoltiamo. C'è chi parte come il Giro d'Italia e come Andrea Zorzi. Stai via 3 settimane, giusto? Sì, fino al 6 di giugno. Avrai un sacco di cose da raccontarci, alla ricerca delle tracce di sport. Dimmi. Scegliendo anche la stagione giusta, perché andare in Sardegna e in Sicilia a maggio... Sì, ci vai mica a novembre, bravo. C'è chi parte, c'è chi torna in Serie A, ad esempio Siena e Atalanta sono appena tornate in Serie A, appena sbarcate in Serie A, con il Siena che ha pareggiato 2-2 con il Torino e l'Atalanta che ha asfaltato il Porto Gruaro 4-1, dunque bentornate a Siena ed Atalanta in Serie A. C'è un'altra Siena che invece riparte da Barcellona e torna a casa con le lacrime agli occhi, ed è quella del basket. 0-4 nelle partecipazioni del Montepaschi alle Final Four di Eurolega. Era un sogno, si è spento, è stato spento ieri dal Panathinaikos e da pessime percentuali di tiro, da una gara resa complicata dai falli da qualche giocatore che ha steccato in maniera abbastanza clamorosa, e il primo che viene in mente è Lavrinovic, qualche malizioso già sentito dire sono già pronti per l'Olimpia Milano. Questa è però una cattiveria, Sì, sul mercato. Però Andrea, l'ossessione di una vittoria, tu conosci bene questa psicosi. Siena, insomma, non è risolta, una grandissima, è la squadra che ha dominato l'impero per le ultime 5 stagioni, quest'anno rivincerà lo scudetto senza nemmeno troppe difficoltà, che qui non trova avversari e che ha questo grande sogno, cioè quello di vincere in Europa. Ci sono squadre che hanno un budget più elevato, quello che si vuole, però insomma sembra sempre lì a portata di mano. Quest'anno sembrava davvero l'anno buono, e invece c'è qualcosa che sfugge di nuovo in queste sfumature della gara secca. Effettivamente quest'anno sembrava fosse davvero cambiato qualcosa, perché nella serie di qualificazione per la Final Four avevamo visto una Siena meravigliosa. Stavo pensando se, giusto per cercare un po' una motivazione, se il fatto di dominare così facilmente, almeno tra parentesi, nella scena nazionale non possa paradossalmente diventare quasi un limite. Nel senso che Loro sono molto bravi, effettivamente sono incredibilmente bravi a restare concentrati, a non lasciare mai nulla al caso, a stare super motivati in ogni singola partita. In Italia qualche volta fanno giochicchiare gli avversari, ma poi quando conta non li fanno neanche scendere in campo. Però è possibile che il fatto di essere spesso in totale controllo di ciò che succede in campo nazionale li porti ad avere qualche tensione in più, quando invece quelle squadre avversarie, che sono strutturati in modo un po' più solido, devono veramente giocare con la pancia, e l'abitudine a giocare con la pancia fino in fondo la si fa pian piano, e quindi è possibile che le squadre greche, ma anche le squadre israeliane o altre, siano un po' più abituate a lottare veramente coi denti fino in fondo. Ma sai, ormai c'è un'elite, no, a livello continentale in tutti gli sport, pallavolo compresa, nel senso che ci sono squadre strutturate per il titolo europeo che sono corazzate nello stagno dei rispettivi campionati, perché anche in Spagna, in Russia, però aiutami, in Spagna Israele, un paio ce ne sono, giusto? Sì, Barcellona Real, ok, Barcellona Real Madrid, col Barcellona che però negli ultimi anni ha, non solo nel calcio come sa bene, nel basket come sa bene Mourinho, però ha messo sotto di brutto Real Madrid. In Spagna un paio ci sono comunque, in Grecia Olympiakos Panathinaikos, e vince sempre Panathinaikos, quindi siamo lì. Sono squadre che sono sovradimensionate rispetto ai rispettivi campionati nazionali. Però, sai, per Siena c'è questa psicosi che tu hai vissuto, di quel titolo, l'unico che ti manca, quello che ti dà la dimensione globale, per voi era l'Olimpiade. L'oro all'Olimpiade, per loro è la Coppa dei Campioni, e non riescono mai a metterci sopra le mani. Poi non so, subentrerà probabilmente. È chiaro, io sono convinto che devi arrivare anche attraverso le sconfitte a quell'obiettivo, però a tutto c'è un limite. Quest'anno sembrava davvero la volta buona, e allora dall'esperienza passi alla psicosi e diventa magari più difficile. Sì. No, mille volte ho già detto che l'unica opportunità che ha un giocatore è cercare di non pensare a questo ricordo ossessivo. Ci si prova, talvolta però quando sei veramente sotto pressione, quando le cose vanno male, quel pensierino no, ancora, siamo alle solite, viene fuori. E già il fatto che questo piccolo spazio emerga significa che rispetto agli altri che non ci stanno neanche pensando, magari nel corso della partita stai giocando, ti trovi in un momento di difficoltà, e secondo me ad esempio ieri il Panathinaikos ha vinto la partita resistendo nei momenti in cui è partito malissimo, nei momenti più difficili, e io credo che quel pensierino venga fuori, no? In realtà è inevitabile che venga fuori, ci si abitua un po' anche a tenerlo sotto controllo, ma poiché poi statisticamente, storicamente, questa sconfitta nei quarti, nelle semifinali è ricorrente, pesa un po' di più, e l'idea no, siamo ancora qui, ma ha a che fare anche più in generale con l'idea del giocatore vincente o perdente. Tu sai che io non credo nel fatto che un giocatore sia a prescindere vincente o perdente, c'è chi meglio di altri riesce a indirizzare tutte le energie per giocare bene in qualunque campo lo stia facendo, c'è qualcun altro che nei momenti di difficoltà per un istante viene fuori questa paura, e basta un istante di insicurezza, di indecisione, la schiacciata va fuori, il tiro non entra, e poi lì inizia una valanga alla quale è difficile porre rimedio. Dunque, maggio è anche il mese, oltre che delle cresime comunioni, degli scudetti e delle feste scudetto, i milanisti stanno preparando quella del calcio, c'è chi prepara quella della pallavolo, per il basket è presto, parleremo anche del mese di maggio, delle cresime comunioni e degli scudetti soprattutto. Lo faremo dopo il traffico, quando invece cominceremo a collegarci con il Giro d'Italia. Insomma, tanti argomenti, venite a trovarci, 800 24 0024 è il numero verde, vi aspettiamo qui. Voci dal Giro. E dunque i nostri speciali pomeridiani si aprono qui. Ve li ricordo, vi ricordo ora e luogo degli speciali con cui seguiremo il Giro d'Italia. Luogo ovviamente Radio 24, queste frequenze, l'ora ogni giorno dopo il GR Sport delle 7 del mattino, e quindi nel GR delle 13, in quello delle 19, e poi naturalmente ogni pomeriggio dal lunedì alla domenica, alla domenica successiva, per tutti i giorni del Giro d'Italia, all'interno di A Tempo di Sport. Per Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo. Senti, dammi subito un flash rapidissimo, come siamo messi in questo momento, poi sentiamo un'intervista. Guarda, mentre si chiude la cronosquadra. Ha appena concluso la Liquigas di Vincenzo Nibali col tempo di 21:21. Diciamo che per la classifica dei grandi, no? Contador, Scarponi, Nibali al momento in testa, e Vincenzo Nibali, quello che ha fatto meglio, ha fatto meglio 2 secondi su scarpone di 4 su Alberto Contador. Invece per quanto riguarda la corsa, il miglior tempo è quello della HTC Aerojet, la formazione americana, che ha Mark Cavendish come capitano, ma che ha anche il campione italiano della cronometro Marco Pinotti, bergamasco italianissimo, che al momento è la maglia rosa virtuale. Loro hanno fatto il miglior tempo in 21 minuti netti alla media di 55 e 186 km/h. Benissimo, quindi Marco Pinotti rimane leader della classifica con Vincenzo Nibali e la sua Liquigas che sono partiti subito forte. A me piace molto, Andrea, la cronosquadra, te lo dicevo prima fuori onda, la trovo un esercizio tecnico molto, molto bello, molto, anche molto spettacolare. Sì, anche esteticamente, sì. Sono un paio di foto di questa fila ordinatissima, perfettamente sincronizzata, ma anche proprio la posizione del ciclista sulla bicicletta, a parte che adesso anche le maglie sono tornate ad essere un po' più omogenee, quindi sono un po' meno colori, un po' lo sponsor principale ha capito che per focalizzare l'attenzione occorre fare un po' di pulizia, e quindi sono più esteticamente belle. E poi il gesto di persone che vanno a 55 km all'ora su delle strade e vanno in perfetta sincronia è uno spettacolo più bello esteticamente e anche graficamente. Bello da vedere, hai ragione. Allora, come vi ho annunciato prima, adesso mentre attendiamo l'ufficializzazione della prima maglia rosa di questo Giro d'Italia che è appena nato, vi faccio sentire questa intervista che Dario Ceccarelli ha realizzato con Giorgio Squinzi, cioè il signor Mapei, figura importante, che è stata importantissima e che è tuttora importante soprattutto per la sua passione nel mondo del ciclismo. Sentiamo cosa ha detto. Si parte un nuovo Giro d'Italia ma senza la maglia rosa, Ivan Basso. Beh, mi sembra che non sia una sorpresa, d'altronde Ivan ha questo obiettivo del Giro di Francia, dopo aver vinto l'anno scorso il Giro d'Italia, mi sembra che ci possa stare bene, anche considerando la situazione all'interno della sua squadra, dove c'è un corridore che sicuramente può fare molto bene al Giro d'Italia, che è Nibali. Parliamo di Nibali, è l'anno scorso terzo, poi primo alla Vuelta, un ragazzo che sta crescendo, come lo vede? Ma io lo vedo come un po' la speranza italiana per i grandi giri, probabilmente deve ancora maturare un filino, però già l'anno scorso ha mostrato di avere le doti giuste per le grandi corse a tappe. Secondo lei ce la può fare a vincere il giro? Il problema è Contador, bisogna vedere in che condizioni arriva Contador e con quale tipo di morale arriva, perché tutti sappiamo che da un momento all'altro gli può arrivare anche la squalifica, insomma. Stavo proprio pensando a questo. Contador è indubbiamente un grande campione, ha vinto quello che ha vinto, però su di lui pende questo possibile giudizio poi della TAS che potrebbe così vanificare una eventuale vittoria. Secondo lei è giusto che partecipi al Giro d'Italia? È una bella domanda questa, perché io personalmente ho una mia convinzione. La positività per cui ha indagato l'anno scorso mi sembra così un po' una cosa poco comprensibile. In compenso credo che Contador sia andato indenne da qualche vicenda del passato, per cui invece altri hanno pagato, tra cui Ivan Basso. Parliamo qua un po' di doping, anche se è un tema purtroppo che così non allieta, però comunque è una costante che c'è ancora intorno al mondo del ciclismo. Ultimamente si sono inaspriti i controlli, la Lampre sappiamo che è successo quello che è successo, il Giro non vuole indagati, ecco, le sembra che ci siano dei passi concreti in avanti? Beh, sicuramente globalmente ci sono stati dei passi in avanti, anche confermati dal fatto dal numero di atleti che sono stati colpiti da provvedimenti, non c'è stato uno che ha potuto poi giustificare che non erano giustificati i provvedimenti presi contro di lui, quindi sicuramente ci sono stati controlli più severi, controlli che sono andati nella direzione giusta, e direi che globalmente il ciclismo sta facendo un passo nella direzione di diventare più credibile. Lei si ricorda le battaglie che io ho fatto all'inizio degli anni, alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Sono state quelle battaglie condotte da Giorgio Squinzi che alla fine l'hanno ho allontanato dal ciclismo, è un peccato, però la sua passione c'è e si sente, come diciamo, da queste parti. Ragazzi, io vi giro però la domanda, la giro ad Andrea Zorze, per Augusto Staggi e anche agli ascoltatori. 800 24 00 24, siamo a questa situazione strana per cui c'è il grande favorito del Giro d'Italia che partecipa grosso modo subiudice, perché mettiamo vincesse la maglia rosa, poi potrebbe arrivare quel giudizio del TAS di Losanna che sfila a Contador la maglia rosa, quindi è una situazione molto particolare, che ieri Nibali ha detto: Contador non è un mio problema, è un problema del Giro d'Italia, può essere un problema la sua partecipazione. Giusto che in queste condizioni si possa partecipare? Guarda, le cuffie ce l'ho già, quindi non me le devo neanche mettere, ma la domanda effettivamente è un po' complicata. Se ne è parlato un po' anche settimana scorsa, dopo la trasmissione che abbiamo fatto insieme con voi, sono andati giù a fare due chiacchiere, si è parlato di questa situazione difficilmente gestibile dal punto di vista legale. Nel senso che è chiaro che ha senso comune, perché far correre Contador quando i dubbi sono così tanti, col rischio in qualche modo di invalidare o di immaginare quasi un doppio Giro d'Italia, mi rendo conto però che le questioni che si sovrappongono sono veramente tantissime. Non credo ci sia alcuna possibilità, cosa che tu dicevi settimana scorsa, se affrontiamo il tema del doping cercando di trovare una soluzione immediata e veloce, non se ne viene veramente a capo. Anche lì sarebbe bellissimo se ci fosse la convinzione che qualche piccolo passettino verso una condizione migliore si sta facendo. Mi pare che in Italia i controlli siano fatti seriamente, lo sono sicuramente più seri che in altri paesi, ciononostante il ciclismo è esposto più di altri sport, per questioni anche proprio di prestazione fisica, al problema del doping. Da questo dire che sia giusto e sbagliato, questo probabilmente una risposta non esiste. No, però fa impressione. Perché ti stai al primo giorno, inizia Giro d'Italia, ci piacerebbe a tutti moltissimo poterci godere esclusivamente la parte agonistica, la storia del Giro d'Italia, e invece c'è sempre questa parte che sta lì. Per Siena era oddio, perdiamo ancora, e quindi un retropensiero che ti disturba. Certo, per il Giro d'Italia è chissà se è tutto giusto, nel caso di Contador è un po' di più. Sì. Non c'è solo un dubbio, insomma c'è qualcosa di un po' più serio e consistente. Pier Augusto, tu cosa ne dici? Che purtroppo qualche anno fa il problema è un problema proprio di governo centrale, di UCI, la gestione dell'antidoping ormai è diventato burocratico e il ciclismo è uscito dalle strade e è entrato nelle aule dei tribunali, e questa dalla situazione di Contador è chiara, perché la positività risale a luglio dell'anno scorso ed è intollerabile che ci siano stati questi tempi, e la negligenza è sicuramente dell'UCI, perché quando vuole stringe pinti e fa pressioni con chi vuole. In altre situazioni invece lascia che la federazione spagnola, che sappiamo che non è rigorosa come la federazione tedesca, dove hanno praticamente raso al suolo e decapitato il ciclismo tedesco, non è così dura come il ciclismo francese, non è così rigorosa come il ciclismo italiano, perché bisogna dire che in materia ciclistica la federazione ciclistica e il CONI sono sicuramente all'avanguardia, tant'è vero che la stessa vicenda di Valverde, vorrei ricordare, se è stato fermato, se è stato squalificato, questo è il merito solo e soltanto della procura antidoping del CONI e del capo della procura Ettore Torri. Il problema è dell'UCI, che non ha, che fa figli e figliastri, e fin quando non ci si libera da questo equivoco, che è quello di avere una centralizzazione dell'antidoping, quindi un uso quasi politico dell'antidoping, fin quando non si riesce a portare un ente terzo a controllare l'antidoping, quindi la VADA piuttosto che qualche altro ente, da rendere omogenea parte, la gestione dell'antidoping, perché se l'UCI trova una federazione che è amica, chiude un occhio; se c'è una federazione che invece ha creato poi in passato qualche problema come quella italiana, si ha tanto rigore. Io mi ricordo molto bene la vicenda di Van Basso, non è stato vittima a Strasburgo. La federazione ciclistica italiana era una federazione molto critica nei confronti dell'UCI, e infatti fece pressione con gli organizzatori del tour e furono mandati a casa. Sulla base di che cosa? Niente. Sospetti, perché poi abbiamo dovuto aspettare un anno la procura del CONI che mettesse spalle al muro Ivan Basso e lui confessasse: sì, è vero, io frequentavo Eufemiano. Certo, certo, ma non possiamo però dimenticare quel giorno in cui Basso fu costretto, sulla base appunto di questi sospetti, ad abbandonare come un ladro un Tour de France che doveva essere il suo. Quindi quello non lo possiamo dimenticare. Un peccato perché che ci sia questa ombra, perché anche a parole mi pare che il duello tra un Nibali che sembra non aver troppa paura, troppo timore reverenziale, e Contador è già cominciato alla vigilia, Sì, sì, è già cominciato. Vincenzo non ha nulla da perdere, perché anzi nella situazione psicologica, come ha detto Ivan Basso, alla vigilia migliore, perché il peso della corsa ce l'ha la Saxo Bank, il peso della corsa ce l'ha Contador, è lui il grande dominatore dei grandi giri. Quindi Vincenzo Nibali, se vince il giro è un eroe nazionale, se lo perde lo possiamo mettere tutti in conto e non è una tragedia. Io credo che Nibali, Scarponi e anche qualche altro corridore, tipo magari una sorpresa tipo Pozzovivo, possano così dare qualche buona soddisfazione al ciclismo italiano. Credo che ci siano tutti gli ingredienti per poter sperare in qualcosa di nuovo, in modo particolare da Nibali, che sta crescendo molto, ha 26 anni, sì, sì, e l'anno scorso ha fatto un grande salto di qualità, ha vinto la Vuelta di Spagna, arrivando terza al Giro d'Italia, e quest'anno per la prima volta a tutti gli effetti parte con i galloni di capitano, con la responsabilità di una squadra, però anche questo piccolo plus che è dato dal fatto di non dover totalmente controllare lui la corsa, può correre sulla ruota di Contador e vedere un po' come va. Sicuro. E oggi è un piccolo segnale, non bisogna sicuramente esaltarsi, però il fatto che l'HTC di Marco Pinotti e Mark Cavendish al comando, la Liquigas è seconda a 22 secondi, però diciamo nel duello tra grandi, tra big, nell'altra classifica, quella che conta, quella che non si vede ma che si vedrà, sì, sì, Vincenzo Nibali al momento è diciamo in testa, è confortante. Sì, sì, certo, un primo segnale. Il discorso, Andrea, che facevamo prima, no? Dei grandi campioni che corrono sotto pressione, no? Sanno che tutti li attaccano e anche lì bisogna davvero avere qualcosa in più per tenere tutto sotto controllo e per gestire la pressione, discorso che facevamo prima, no? Infatti questo è il vero grande passaggio, la prima vittoria, il primo successo è sull'onda dell'entusiasmo in cui butti in campo o in bicicletta tutto quello che hai e quando sei arrivato al traguardo è veramente finito. Poi c'è qualcuno che inizia a voler anche rivincere e deve quindi distribuire, quasi preservare un po' di energie. Nel caso di Contador si diceva vorrebbe tanto fare il triplete, il che significa che per lui il Giro d'Italia è una tappa molto importante che deve vincere, ma deve anche inserirla all'interno di un programma molto più ampio. Quindi l'idea è preservare ogni singola energia, il che significa esultare quanto necessario, non deprimersi se non è necessario. E qui è veramente molto stimolante vedere come due persone che fanno lo stesso giro lo inseriscano in una cornice diversa. L'idea di saper preservare energie per un grande campione che vuole vincere molto e più volte in un anno è strategicamente fondamentale. Quanto manca alla fine per Augusto? Guarda, sta arrivando la vacanza a lei e poi dobbiamo aspettare il team Radio Shack e la Movistar e abbiamo chiuso. Team Radio Shack, eccetera, tra poco dunque la chiusura del Giro d'Italia. Noi ci fermiamo giusto un attimo e poi vi diamo l'ufficializzazione della prima maglia rosa. 800240024 per intervenire, poi apriamo la stagione delle feste scudetto. Il capitolo festa scudetto. E delle cresime. Ibrahimovic, abbiamo le crisi. Abbiamo capito quanti ne ha vinti in fila Ibrahimovic? In fila, no, 9 ne ha vinti, ma in fila c'è un buco. 9 negli ultimi 10. Esatto, c'è un buchetto lì, sì, in Olanda. Ormai si annoia a fare festa, cioè tutti gli anni, pazzesco. Ci sentiamo dopo, tra poco. E c'è Marco che scrive via sms 349-238-6666 per la cronaca, così come per la cronaca il numero verde 800-24-0024. Credo sia scandaloso, scrive Marco, anche perché sulla partecipazione di Contador, anche perché ci sono le scommesse sportive e Contador è il favorito netto. Questo è un aspetto collaterale però che va pure tenuto in considerazione. C'è mio amico Andrea Zorzi che era sorpreso dei saltelli delle biciclette negli ultimi metri di questa cronometro. Sì, anche come diciamo, siccome la cronosquadre vanno velocissimi, ma veramente veloci, c'era una fase in cui il rallenti della Rai proponeva queste biciclette che saltellavano, addirittura un po' sbandavano perché bastano delle piccole imperfezioni del terreno, non si trattava neanche, mi sembrava, di pavé o di materiale, proprio di una... Chiediamolo a Piero Augusto. Esatto. Cos'è? Gli ultimi metri del cronometro si corre sul selciato? Eh sì, ci sono. sono del porfido proprio dei piedi del pavé. Che i corridori amano tantissimo, come sappiamo. E poi soprattutto con biciclette in carbonio, ruote in carbonio, profilo d'alto, grande rigidità, però anche dei grandi balzi. Sì. Sta finendo, no, la crono? Sono dei missili. Sì, comunque possiamo dire che ufficializzare che Marco Pinotti è la prima maglia rosa. Grande l'ingegner prima maglia Pinotti. Rosa, sta arrivando la Movistar, ma non potrà migliorare perché Radio Shack ha fatto il secondo miglior tempo, l'HTC di Cavendish e Pinotti ha fatto 21 netti, invece la Radio Shack 21.09. E quindi Marco Pinotti torna a vestire la maglia rosa, l'aveva già vestita per 4 giorni consecutivi nel 2007. Ingegner Marco Pinotti, laureato in ingegneria, è uno dei dotti del ciclismo italiano, un ragazzo molto molto capace, molto bravo, molto intelligente, è anche un giornalista, scrive un diario su un quotidiano locale dove lui vive, l'Eco di Bergamo, e corre per questa formazione americana ormai da qualche anno, parla perfettamente 4 lingue, quindi il ciclismo non è più uno sport povero e soprattutto non è più il ciclismo del ciao mamalo, diciamo, sì, ufficialmente. No, ci sono voluti 150, no, 150 anni no, però 94 anni di edizione del Giro, sì. Sono arrivato uno. Sì. Vabbè, ma sai. No, io credo che ci siano forse magari qualcun altro dice sono arrivato uno, ma i corridori che dicono sono arrivato uno è difficile trovare. Grazie per Augusto, noi ci sentiamo. Sicuro Marco Pinotti non no, fa parte. Marco Pinotti tra l'altro, ma perché l'ha detto lui, non è pubblicità gratis, l'ha detto lui, tante volte è stato ai nostri microfoni, anche un nostro affezionato ascoltatore. Movistar che chiude in questo momento all'undicesimo posto, 21.37, dunque ufficiale, Marco Pinotti alla prima maglia rosa di questo Giro d'Italia con Pier Augusto Staggi. Ci ritroviamo dopo il Giro delle 19 per rifare il punto. Grazie, e poi domani naturalmente. Grazie Pier Augusto Staggi, allora l'ingegner Marco Pinotti, uno dei dotti del ciclismo. Sì, ciclismo che è cambiato tanto, ma se ne è parlato, dalle immagini in bianco e nero alle immagini super colorate, dal professionismo più spinto a chi invece partiva un pochettino. E Cristiano Bartoloni raccontava la settimana scorsa del ciclismo, del sì, ciclista che è stato trovato in un fienile con sì, le idee un po' confuse per la fatica di queste tappe, sì, che c'era lunghe. Dario Ceccarelli che era presente e tu l'anno dopo io sì, lascia stare. No, invece io voglio parlare di cresime e comunioni, tra l'altro Numa domani la fa, sì, domani la cresima. Mi ha chiesto babbo, ma lo schiaffo del vescovo? Fortissimo, una certo, botta terrificante. E, a cosa serve la madrina a tenere botta? E anche il mese delle feste, scudetto, prima contavamo gli scudi di Ibrahimovic, 2002 con l'Ajax, quindi ha saltato il 2003, ai ai ai, ma poi si è fatto 2004, poi fate voi insomma, 2005-2006 lui sul campo c'era quando gli eventi già festeggiati, poi... Sapete quello che è successo e quindi non voglio pestare il vespaio. Ufficialmente non sarebbero segnati. Che non sono segnati, però lui... Contiamo le feste scudetto di Ibrahimovic e allora sono 2002, 2004 con l'Ajax, poi 2005-2006, festa torta andata di traverso, 2007, 2008, 2009 con l'Inter, 2010 col Barcellona e stasera magari 2011 col Milan, se no stasera settimana prossima. Mica sono tantissimi, con squadre diverse. Ma sarà un caso secondo te? Cioè può essere casuale che o è un talismano? Adesso parliamo anche di talismani e scaramanzie nella scheda che stiamo per sentire. Ma può essere casuale che sia un personaggio in grado di catalizzare lo scudetto? Io vorrei attirare il fulmine dello scudetto. A me piacerebbe dir di no, però non si può, perché qui c'è la prova che Ibra dove è andato ha vinto. È vero che in alcuni casi era protagonista assoluto, in altri casi era un po' di meno. L'anno scorso a Barcellona non hanno vinto grazie a lui, anzi, a voler fare un po' di polemica, il fatto che abbia vinto così tanti scudetti a livello nazionale e così meno fortuna, così nessuna Coppa dei Campioni, così meno fortuna, così nessuna Coppa dei Campioni, mi viene in mente che più volte abbiamo detto a questi microfoni che la Champions League obbliga una squadra a giocare in quanto squadra, e nessun atleta è così forte individualmente da poter diventare l'ago della bilancia. Evidentemente Ibra è in grado di spostare, lo ha fatto fin troppe volte, l'equilibrio di una competizione nazionale, non riesce a farlo con la competizione europea. Senti, ma i tifosi del Milan adesso che stanno facendo, qua sotto è pieno di bancarelle che vendono magliette celebrative, no? Adesso sono lì, le guardano con sospetto, la settimana scorsa le hanno portate via, eccetera, eccetera, eccetera. Però adesso è il momento, non so, qualche milanista poco scaramantico la compra, qualcun altro aspetta stasera, magari la paga di più. Però la scaramanzia conta. Adesso, anche Allegri della settimana scorsa, non possiamo dirlo, però, però saremmo. Allegri è lì che da qualche settimana non vedo dire, ragazzi, non fatemelo dire, ma lo vedete, vedete anche voi la situazione, la classifica. Invece, spiegami un po' la storia di questo calcolo un po' complicato e astruso legato alla Coppa Italia adesso. E dunque c'è questa diatriba in atto sui forum dei tifosi, soprattutto tra tifosi, no? Milanisti. Sì, dico, io sono divertitissimo spettatore. Uh-huh. Per cui ci sono tifosi del Milan, non so se ne avrò riscontro attraverso SMS o telefonate, tifosi del Milan che dicono: vinciamo lo scudetto, poi in Coppa Italia magari lasciamo andare avanti il Palermo, no? Perché se ci fosse la finale di Coppa Italia, Milan-Inter all'Olimpico di Roma e l'Inter ci vince sotto il naso a Coppa Italia, chiudiamo la stagione loro festeggiando e noi con la coda tra le gambe nonostante lo scudetto. Quindi piuttosto che dare una soddisfazione ai cugini, io ho vinto scudetto, mi levo, vai avanti tu Palermo, gioca tu con l'Inter, poi facciamo il tifo per te, no? Però meglio levarsi di torno e non giocare quella scivolosissima partita. È un ragionamento, una perversione pazzesca. Che se entra in campo negli spogliatoi è un pessimo ragionamento. Perché quello da fare, andiamo avanti e si prova a vincere tutto quello che c'è da vincere e poi dopo si vede. È però vero che, sai, per un milanista vedersi rovinare un po' una stagione straordinaria perché poi il cugino interista si vende una vittoria meno importante. Tu sei riuscito a sopravanzare dopo un millennio, no? Dopo 5 scudetti consecutivi, dopo aver ingoiato il triplete eccetera eccetera, dici stavolta gliel'ho fatta, ti vincono la Coppa Italia sotto naso, ti dicono ciao mica bello, non lo so, è interessante. 800 24 0024, traffico, e poi a proposito di scaramanzia vi faccio sentire una cosa. Beh, c'è Marco che è più realista del re: scudetto e coppa, sentenzia via SMS. Questo deve essere la risposta. Questa deve essere, sono d'accordo. Questa deve essere la risposta. Però ammetti che il contorto e perverso ragionamento da tifoso può avere un... Sai che questo è legato al tempo fondo, a disposizione. Essendo un tifoso e non potendo partecipare, quindi non essendo impegnato per allenarti, hai un sacco di tempo per fare dei ragionamenti. Se invece sei coinvolto e ti devi allenare, riposare, giocare, ci pensi un po' di meno e vai per la per strada vincere. Provando a vincere, ben sapendo che in realtà qui c'è un rischio perché, come dicevi te, chiudere, l'importante è l'ultima. Me l'ha detto chi è che me l'ha detto un po' di tempo fa? Si parlava di World League e di campionato europeo o campionato mondiale, essendo posizionati in due fasi diverse della stagione. Tu puoi fare benissimo nella World League, che è a metà dell'estate. Se poi vai male all'europeo, nessuno ti dice: ah sì, però hai fatto bene nella World League, perché ciò che rimane è l'ultimo evento. Sicuro. E poi con la tale velocità della comunicazione attuale è così in modo esponenziale, ti ricordi solo l'ultima partita, l'ultimo trofeo. Assolutamente. A proposito di scaramanzia, scheda Cristiano Bartelloni. Chi disse «preferisco avere fortuna che talento» percepì l'essenza della vita. Nel prologo del film Match Point, Woody Allen ci dà la sua personale risposta sull'annosa questione «esiste o no la fortuna?». A guardarsi intorno sembra che gli sportivi convengano con la sua interpretazione. Riti di ogni genere occupano le vigilie. Musiche particolari, magliette portafortuna, frasi e gesti da ripetere identici all'infinito. Ed è così in tutto il mondo, con le dovute differenze culturali. Nei paesi anglosassoni c'è un'attenzione particolare ai numeri, da evitare sempre il pericolosissimo 13. In Giappone è il 4 ad essere bandito, a causa della somiglianza alla parola giapponese che significa morte. In Africa e Brasile ci si affida a pratiche esoteriche come il voodoo o a macumbe lanciate contro gli avversari. Nei paesi latini la scaramanzia si mischia col sacro. Cornetti e amuleti si accompagnano a immagini sacre e boccette d'acqua santa. A prescindere dalle diversità, la motivazione è sempre la stessa: controllare l'imponderabile. E nel caso di Laurent Blanc, diremmo che ci è riuscito benissimo. Prima di ogni match con la nazionale francese, raggiungeva il portiere Fabien Barthez e gli baciava la pelata. Vinse il mondiale nel 1998 e l'europeo del 2000. E per come abbiamo perso quest'ultimo, sarebbe stato meglio impedire quel bacio. Per la serie non è vero, ma ci credo. Certo. C'è un tifoso rossonero che scrive: un ragionamento veramente idiota, vorrebbe dire che siamo più scarsi non solo dell'Inter ma anche del Palermo, poi l'abbiamo già battuta quest'anno in campionato, sempre l'Inter, sì, però non bisogna essere così razionali, cari, perché non è questo il senso. No? La razionalità. Senti, vuoi mettere, vuoi mettere Woody Allen e il nostro Ronzo Canà? Questa è la diversità tra gli anglosassoni che si focalizzano sui numeri e gli italiani che invece sanno boccette, sale, sì, rosari, acqua santa, io, eccetera, eccetera. Io ho fatto così. Tu? Per cercare di non essere schiavo delle scaramanzie, avevo in realtà alcune cose che tendevo a ripetere, però erano più delle modalità, quindi un tipo di musica, ma cercavo di non essere schiavo. A quel punto a volte cambiavo volutamente ciò che mi aveva portato bene la settimana precedente, per essere poi schiavo del fatto che dovevo cambiare ogni volta, e quindi sono un po' ricaduto dalla parte opposta in questa scaramanzia. Come prima, te lo dicevo, cerchi con la testa di dire no, non voglio sprecare energie in qualcosa che non conta, perché la fortuna non è controllabile, e però se tu vinci una partita giocando bene, con facilità, la volta dopo il costume non ti ricordi bene qual era, ma insomma sai qual è, ti allacci le scarpe più prima o meno allo stesso modo, e il cerotto di pallavolisti con cui proteggi le dita va messo più o meno allo stesso modo. Senti, ma la scaramanzia più pazzesca che hai visto in uno spogliatoio? Cioè l'ossessione più grande. Sai che di solito le scaramanzie sono individuali e non debbono essere dette, se no perdono il valore. Talvolta capita che casualmente coinvolgi qualcuno, magari senza ben saperlo, dei tuoi compagni, la scaramanzia diventa di gruppo, collettiva. Con la nazionale non c'erano grandi scaramanzie. Ho scoperto solo dopo che Lorenzo non si era mai cambiato il costume, non l'aveva mai lavato. Bernardi sì, per tutto il mondiale, ma l'ho scoperto dopo. Io ho una cassettina di musica che ascoltavo, un auricolare io, un auricolare Roberto Masciarelli, che era musica degli anni 80. Però devo dire che abbiamo sempre cercato di limitare, come dire, la scaramanzia a dei gesti che fossero più o meno accettabili. Massimo Calegari, buonasera. Buonasera a voi, state benissimo, vi sento in grande forma. Sempre, siamo sempre in grande forma, anche perché Zorzi sta per partire, quindi è tutto contento. E invece sto qui. Bravo, e Carlo resta qui, non vuole uscire, l'ho invitato. Non è vero, ma tu sei scaramantico? No, io no, io mi metto anche la cravatta viola in televisione, quindi tu sei nessun matto. Problema. Tu sei matto. Mourinho è scaramantico? Diceva di no, ma qualcuno che gli stava vicino diceva di sì. Sì, e queste cinque giornate che gli hanno rifilato, una con la condizionale, per la verità, perché una condizionale non si nega a nessuno, però queste cinque giornate che gli hanno rifilato per quella conferenza stampa? Secondo me sono meritate, e è una punizione che comprende anche se non è l'intento della UEFA, il modo in cui lui ha gestito sul campo queste due semifinali che potevano essere gestite meglio dal Real Madrid, perché il Barcellona ha ritrovato la convinzione e la fiducia anche grazie all'atteggiamento del Real nella prima partita, perché Guardiola della vigilia, è vero che i suoi giocatori l'hanno applaudito quando è arrivato in hotel dopo la conferenza stampa, ma tradiva una tensione che non era quella di chi si sentiva così più forte come poi è sembrato il Barça in campo. E la partita di ritorno, giocata in modo diverso dal Real, ha confermato questa questa sensazione. Ma Andrea, il grande sconfitto Mourinho in questa primavera. Sì, lui sembra non fare una piega, come spesso ha fatto. Pensa, l'altra sera ho incontrato Bruno Pizzul, il leggendario telecronista. A un certo punto ha detto: no, sai cosa devo dirti? Che a me piacerebbe poter guardare le partite, in questo caso Real Madrid-Barcellona, ma poi non ne posso più. Si parla sempre e solo di Mourinho, e non è questo che gli piace fare. Ma colpa sua o colpa degli altri? Merito suo o colpa degli altri? Colpa un po' di tante cose, cioè è cambiata la comunicazione, lui è abilissimo nel sfruttare questo tipo di comunicazioni, i giornalisti naturalmente gli stanno dietro, poi alla fine si scopre che, te l'ho detto la settimana scorsa, la Gazzetta vende più facilmente un titolo sul mercato che un titolo sulla medaglia d'oro alle Olimpiadi, e questo è il sintomo di qual è l'attenzione, di cosa cercano gli appassionati o i tifosi dello sport più in generale. E quindi è un po' così. Poi io non ho grandi simpatie per Mourinho. Io non ho tutta questa antipatia. Tra l'altro, interessante adesso, Luca diceva, ti hanno fatto l'applauso quando è tornato... Massimo, sì. Gli ha fatto l'applauso quando è tornato per la conferenza stampa. È veramente... È così. Massimo, al di là dei milanisti tocchino quello che vogliono, stasera festeggiano, secondo te? Beh, presumo di sì e credo che l'uomo di questa sera possa essere, non per tanti discorsi razionali, ma per un discorso proprio di pancia, visto che lui spesso non si è parlato di mal di pancia, Ibrahimovic, in questo caso perché manca da troppo tempo un suo marchio sullo scudetto, cioè lui ha segnato un gol da gennaio in poi e neanche su azione e quindi credo che il suo orgoglio, la sua voglia di protagonismo, di essere centrale sempre nei momenti dei successi delle sue squadre, soprattutto in campionato, evidentemente secondo quello che racconta la sua carriera, sarà molto, molto importante. Poi torna anche Pato, cioè qui, visto che parlavate prima di razionalità e razionalità, sul piano razionale questa sera è difficile vedere un motivo per cui il Milan non possa fare almeno un punto. Poi è giusto che i tifosi la vivano in maniera diversa. Massimo, ti ringrazio e ti aspetto presto. Un abbraccio. Ciao Massimo Callegari. Allora vai. Ci sentiamo? Sì, ci sentiamo. Venerdì prossimo, dai. Ah sì, vabbè, sono un po' arrabbiato. Ciao Andrea, ciao, grazie. No, scherzo, naturalmente, lo seguiremo. Andrea L'avevo Zorzi, preso sul serio. Questi due Giri d'Italia paralleli, Andrea Zorzi, Tracce di Sport e il Giro d'Italia che è appena cominciato. Giorgio De Luca in redazione con Cristiano Bartellone, Roberto Scaltritti in regia con lo sport. Ci sentiamo domani dalle 16:30. Buona serata.